mi aspetto da te, cosa ti aspetti da me? Cosa sarà ora di noi? Cosa faremo domani? Potremmo andarcene via, dimenticarci, oppure giocarci il cuore, rischiare. Cosa mi aspetto da te? Adesso che siamo qui, nudi sul tetto del mondo, del mondo. Potremmo dirci bugie tranquillamente, oppure andare per mano per sempre. Fammi respirare ancora e portami dove si vola, dove non si cade mai. Lasciami lo spazio e il tempo e cerca di capirmi dentro. Dimmi ogni momento che ci sei, che ci sei. Cosa ti aspetti da me?